Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Gheddafi atterra a Ciampino, accolto da Berlusconi, adesso è al Quirinale. Il CSM boccia il pacchetto sicurezza, lei dei diritti umani, dice l'alta corte, avverte, il reato di clandestinità paralizzerà gli uffici giudiziari. Primo segnale di ripresa, la produzione industriale torna a salire ad aprile dopo 11 mesi, ma il PIL resta a meno 6%. Il sì alla fusione Fiat Chrysler fa volare in borsa il titolo Fiat e a Roma si incontrano i governatori delle regioni, dove ci sono gli stabilimenti italiani. Alla Camera si vota la fiducia per le intercettazioni, protesta compatta l'opposizione, PD, UDC e Italia dei Valori si appellano a Napolitano. E a Montecitorio slitta intanto il voto per l'Abruzzo, insorgono i sindaci, mentre l'Aquila celebra nelle tendopoli la festa del patrono e per il suo messaggio il vescovo sceglie YouTube. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Anna Migliorati. Dunque è al Quirinale il leader libico Muammar Gheddafi, arrivato questa mattina per l'attesa e anche contestata visita in Italia che lo porterà anche a tenere un discorso al Senato. E allora andiamo subito al Quirinale dove ci racconta tutto Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Una visita storica, quella del leader libico Gheddafi nella capitale, con un'agenda ricca di appuntamenti a partire dalla colazione qui al Quirinale con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Tra circa mezz'ora vi dovrebbe essere una dichiarazione congiunta. Gheddafi è stato accolto a Roma al suo arrivo all'aeroporto di Ciampino dal Presidente del Consiglio Berlusconi. Il Premier e il leader libico si rivedranno nel pomeriggio alle 18 a Palazzo Chigi, alle 19 per una conferenza stampa a Villa Madama. Nella tre giorni romana Gheddafi visiterà tra l'altro domani il Senato e il Campidoglio, nel pomeriggio venerdì la Camera dei Deputati, ci sarà poi un incontro in Confindustria 1 all'Università La Sapienza. Sabato il leader libico riceverà nella sua tenda allestita a Villa Panfili una delegazione degli italiani rimpatriati dalla Libia, imponenti come prevedibile le misure di sicurezza messe in atto dalle forze dell'ordine. Gheddafi è accompagnato inoltre da una delegazione di circa 300 persone. Dal Quirinale è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, adesso invece andiamo alle nuove critiche che arrivano al pacchetto sicurezza e arrivano dal CSM. L'introduzione del reato di clandestinità porterà alla totale paralisi di molti uffici giudiziari e non favorirà l'allontanamento di stranieri entrati irregolarmente nel nostro paese. È questo l'avvertimento della sesta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nel suo parere al pacchetto sicurezza approvato all'unanimità. Secondo il CSM, inoltre, alcune norme del DDL ledono i diritti dei clandestini e dei loro figli, come ad esempio quella che richiede per la dichiarazione di nascita l'esibizione del permesso di soggiorno da parte del genitore. Questa norma è in contrasto, scrivono i consiglieri, con il diritto del minore alla propria identità personale e alla cittadinanza, che va riconosciuta immediatamente al momento della sua nascita. Un diritto sancito dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e ratificata anche dall'Italia. Quanto ai clandestini adulti, i consiglieri sottolineano come venga leso il loro diritto alla salute e ad altri beni fondamentali tutelati dalla Costituzione. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 ore. Ad aprire la pagina economica un primo dato positivo dall'inizio della crisi, arrivato oggi dalla produzione industriale tornata a crescere ad aprile rispetto a marzo. Il dato congiunturale è un più 1,1%, il primo dato positivo, il primo segno più dopo 11 mesi di caduta continua. Resta comunque fortemente negativo il dato tendenziale rispetto ad aprile di un anno fa, il calo della produzione industriale del 25,4%. Altri numeri, continuiamo a dare i numeri, questa volta però sono un po' meno positivi quelli che riguardano il prodotto interno lordo, perché l'Istat ha corretto al ribasso le stime preliminari. Nel primo trimestre di quest'anno il PIL è infatti calato del 6% rispetto a un anno fa e del 2,6% rispetto al trimestre precedente, mentre per quanto riguarda il cosiddetto calo acquisito, perché quest'anno è già al 4,7%. E un primo commento è arrivato dal ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola. Un inizio timido, di lenta ripresa, il peggio è passato e guardiamo con più ottimismo al futuro. I dati bisogna saperli leggere, perché sono positivi, perché devono servire a capire come ci si deve comportare, ma devono essere letti bene. Ci sono i dati vecchi e i dati nuovi. che la produzione industriale nell'ultimo anno fosse in calo è un dato evidente, che la crisi in questo paese ci sia è un dato evidente a tutti, ahimè. Noi stiamo valutando gli indicatori se questa crisi incomincia a finire e allora io preferisco vedere il dato del più 1,1% di questo mese confronto al mese precedente, il che significa che si è interrotta la discesa e che c'è la speranza che sia iniziata la timida e lenta ripresa. E così il ministro per lo sviluppo economico sui numeri della crisi, Mascaiola, ha anche parlato di Fiat e ha annunciato un incontro con le parti sociali nei prossimi giorni. Intanto, proprio per quanto riguarda il lingotto, dopo il via libera dei giudici americani alla fusione con Chrysler, questa mattina il titolo in borsa viaggia piuttosto alto, più 5,6% in questo momento, e noi di questa vicenda ci occuperemo anche più avanti nel corso di Extra Large. Necessità di riforme strutturali del sistema economico e di un dialogo tra le parti sociali. Un invito è arrivato intanto questa mattina dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini, aprendo il convegno su imprese e lavoro nella Costituzione, alla presenza del Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Sentiamolo. Personalmente non credo che il ritorno al passato di una diversificazione territoriale dei salari produrrebbe alcunché di positivo per il Paese. In questo modo si darebbe un messaggio disgregante ai territori più deboli del Paese. La via da percorrere, casomai, è quella di una maggiore libertà contrattuale sul piano territoriale e aziendale, che consenta alle parti sociali, fatte salve condizioni e garanzie irrinunciabili di base, di legare le retribuzioni ai livelli effettivi di produttività e alla disponibilità di manodopera, indipendentemente dalla collocazione territoriale delle imprese. In conclusione, le istituzioni devono oggi essere sensibili allo sviluppo della cultura della condivisione tra tutti i soggetti della produzione, perché la diffusione di tale cultura rappresenta un indubbio fattore di efficienza economica e innovazione produttiva, e anche perché permette di realizzare in modo attuale e compiuto la finalità di promozione umana e morale del lavoratore prevista dalla nostra Carta Costituzionale. Abbiamo parlato poco fa delle critiche dei magistrati del CSM al pacchetto sicurezza. C'è un altro provvedimento che accende il dibattito sulla giustizia, è il DDL sulle intercettazioni. Questo pomeriggio si vota la fiducia alla Camera. Elisabetta Fiorito. Unite sulle intercettazioni dopo la decisione del governo di mettere la fiducia alla Camera che verrà votata oggi, come avete detto da studio, PD, IDV, UDC si appellano al capo dello Stato. Il governo mette in atto un grave abuso nell'uso della fiducia, si legge nella lettera inviata a Giorgio Napolitano. Le forze di opposizione si interrogano con forte preoccupazione sulla compatibilità di questo continuo ricorso con i principi costituzionali. Perdonati IDV, siamo di fronte ad un atto di avversione. In gioco c'è la libertà, perché quella dell'esecutivo è una legge gravemente incostituzionale. Il nostro, dice Vietti UDC, ha un messaggio anche al Ministro della Giustizia. Per Soro, PD, esprimiamo grande disagio democratico, così si modifica di fatto la Costituzione. Ma la maggioranza fa quadrato, per cota della Lega ricorrere alla fiducia a uno strumento previsto dalla nostra Costituzione. Per Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia della Camera, è un testo ampiamente dibattuto e la maggioranza ha accolto molte delle proposte dell'opposizione. Il voto di fiducia inizierà subito dopo le 17 qui a Montecitorio, il risultato è previsto tra circa 2 ore dopo dall'inizio a chiamata nominale. Per il momento qui dalla Camera è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E la fiducia sulle intercettazioni proprio alla Camera ha comportato uno slittamento del disegno di legge per la ricostruzione in Abruzzo che doveva essere votato oggi. I sindaci delle zone colpite protestano e i presidenti di regione, provincia e il sindaco dell'Aquila sono a Roma. Per la festa del patrono San Massimo d'Aveia è tutto pronto. L'arcivescovo dell'Aquila in giornata trasmetterà su YouTube un messaggio di auguri agli aquilani. Alle 18 nella tendopoli di Piazza d'Armi sarà celebrata la messa. Quella che fino allo scorso anno veniva celebrata in Duomo, ma la chiesa di San Massimo del XIII secolo ha perso il tetto e la parete sinistra dopo il terremoto. Chissà quando gli aquilani potranno tornare lì a celebrare il patrono. Nelle tendopoli più piccole e più lontane dal capoluogo, ormai quasi deserte, vengono smantellate le cucine. Segnali di qualche passo avanti. avanti, ma i problemi sembrano altri in questi giorni, mentre gli aquilani aspettano notizie più certe su quando potranno rientrare a casa o quando avranno un tetto sulla testa. Nei territori cosiddetti fuori dal cratere monta la protesta. Sono quei comuni della provincia, non compresi fra i 49 terremotati, ai quali un'ordinanza del premier Berlusconi, firmata a urne aperte e resa nota a urne chiuse, ha disposto la revoca delle agevolazioni fiscali. A Sulmona, il centro più grande fra i comuni interessati, ieri è stata una giornata di proteste, non solo dei cittadini, ma della giunta guidata dal PDL, con il sindaco e 7 consiglieri che hanno lasciato il partito. E intanto, visto che il provvedimento arriva dal Ministero dell'Economia, il sottosegretario Bertolaso prova a mediare anche con Tremonti. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. E già vi diciamo che la presidente della provincia dell'Aquila la sentiremo più avanti, sarà ospite oggi a Extra Large per l'intervista. E c'è sempre più attenzione attorno all'Italia del calcio, che affronta già questa sera in amichevole la Nuova Zelanda a Pretoria. Da domenica il via alla Confederation Cup, vera e propria prova generale dei mondiali 2010. Loro, i neozelandesi del rugby, leggende dello sport mondiale, e per capirci basta il nome, All Blacks e l'eco della haka. Gli altri, i pochi che ad Auckland e dintorni si divertono a prendere a calci il pallone, quello rotondo, relegati al ruolo di sportivi di Serie B. E a marcare la distinzione, un soprannome che è l'opposto delle leggende della palla ovale. Quegli All Blacks, tutti neri, i calciatori All Whites, i tutti bianchi. In un paese innamorato di rugby, appunto, ma anche vela, softball e cricket, il calcio vivacchia nelle retrovie. Non c'è un campionato professionistico e i calciatori migliori giocano in Australia o Europa. Magre consolazioni anche a sfogliare l'Albo d'Oro. Una sola partecipazione ai campionati mondiali, a Spagna 82, quando gli azzurri di Berzot diventarono campioni del mondo, mentre i kiwi venivano travolti da Brasile e Unione Sovietica. Allora la stella era l'attaccante Winton Roofer, poi protagonista in Bundesliga a Brema. Oggi occhio ai talenti di James e Wood. Quella di Pretoria è la prima gara in assoluto tra azzurri e neozelandesi. Obiettivo minimo, Confederations a parte, fare il bis tra un anno, quando in Sudafrica si giocherà il mondiale. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 15 minuti, riprendiamo in studio con GR24 Extra Large. E nella prima parte abbiamo seguito la visita del leader libico Muammar Gheddafi in Italia, atterrato a Ciampino, accolto dal premier Berlusconi. Adesso è al Quirinale, incontrerà il capo dello Stato napolitano. E poi le nuove critiche al pacchetto sicurezza che arrivano dal CSM. Il reato di clandestinità, dicono i magistrati, paralizzerà gli uffici giudiziari. E poi, per quanto riguarda la pagina economica, ci sono prime notizie positive, primi segnali di ripresa. La produzione industriale in Italia torna a salire ad aprile dopo 11 mesi di calo, anche se il PIL quest'anno è previsto di nuovo in calo, meno 6%, peggio delle stime preliminari dell'Istat. Adesso il conto alla rovescia per l'operazione Fiat. La vendita della Chrysler alla Fiat è ormai davvero questione di ore, dopo il via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha respinto il ricorso presentato da 3 fondi pensione dell'Indiana e da alcune associazioni di consumatori. L'operazione potrebbe essere perfezionata già oggi, sono quindi le ore decisive al Lingotto, e noi a Torino andiamo da Marco Ferrando. Marco, quali sono allora i tempi da attendersi per la decisione? Buongiorno, buongiorno da Torino. Come dicevate da studio, potrebbe essere questione di ore o addirittura forse di minuti. Infatti, dopo il via libera notturno da parte della Corte Suprema per la cessione definitiva cessione, la firma del contratto che prevede di fatto il trasferimento dei principali asset di Chrysler al Lingotto, fonti vicine allo stesso Lingotto dicono che questa firma, l'ultima che manca, potrebbe arrivare già entro le 15 ora italiana, dunque alle prime ore del mattino, ora americana. In ogni caso bisogna dire che ormai l'operazione è data per fatta da tutti, a partire dalle borse. Infatti Fiat oggi in borsa guadagna oltre il 5%, praticamente il doppio rispetto alla media dei titoli auto. Ecco, invece, sempre sul fronte Fiat, da segnalare un'altra operazione, un'altra tappa in programma per oggi, questa volta una partita italiana, diciamo così, una partita che si apre oggi pomeriggio nella sede romana della Regione Piemonte. Infatti, oggi pomeriggio si incontreranno i presidenti di tutte le regioni interessate dagli stabilimenti del gruppo Fiat, quindi sì il Piemonte, ma anche Campania, Basilicata, Sicilia, Molise, su tutti. Obiettivo dei governatori: provare a mettere a punto un'azione comune di fatto per il sostegno a programmi di ricerca sull'auto ecologica. In sostanza i governatori stanno tentando di mettere in piedi una sorta di piano Obama, che le stesse regioni potrebbero finanziare attingendo i fondi strutturali europei, quindi arrivando fino a mettere insieme alcune centinaia di milioni di euro, un pacchetto da presentare al governo e poi alla Fiat per radicare ulteriormente il gruppo Fiat nei suoi stabilimenti. In pratica l'arma della ricerca, del trasferimento tecnologico, per evitare che la crisi costringa a chiudere o comunque ridimensionare gli stabilimenti italiani. Però e Marco, ricordiamo anche che poco fa, noi l'abbiamo detto, il ministro Scajola ha anche annunciato incontri proprio sul fronte occupazionale con i sindacati per i prossimi giorni, quindi oltre ai governatori delle regioni c'è ancora anche il governo in campo. C'è anche il governo in campo, ricordiamo che doveva essere convocato per questi giorni il tavolo a tre, il tavolo tra Lingotto, le parti sociali e il governo. Data anche questa, come dire, questo imprevisto del ricorso, quindi l'allungamento dei tempi per la vicenda Chrysler, la scadenza, la convocazione per ora è saltata, però come dicevate Scajola ha parlato questa mattina all'Assemblea dell'Unione Petrolifera dicendo che il tavolo a tre dovrebbe essere convocato a giorni, dunque se ne parlerà, si aprirà il delicato dossier occupazionale. Grazie Marco Ferrando, e noi invece torniamo negli Stati Uniti alla decisione di ieri della Corte Suprema americana. La Corte Suprema americana dunque non ha avuto dubbi, l'accordo Chrysler-Fiat è legittimo e può andare avanti. Colpisce la rapidità della decisione, la sostanza formalmente ineccepibile di questo passaggio per la Corte Suprema americana. Un passaggio fondamentale perché toglie ogni dubbio sulla legittimità della sentenza del Tribunale fallimentare di New York su Fiat Chrysler e sull'intero progetto dell'amministrazione Obama per rimettere in piedi il settore automobilistico. Con la decisione della Corte infatti non si sdogana soltanto l'accordo Fiat Chrysler, ma si consente alla GM di procedere lungo la stessa strada, dietro i fondi pensione dell'Indiana che avevano presentato il ricorso in Corte Suprema. Si era infatti formata una lunga coda di creditori pronti a intervenire contro l'avvio di procedure fallimentari simili per la General Motors. C'era qualcosa di più importante, al di là della rivendicazione di chi voleva proteggere il proprio investimento, prendeva corpo il sospetto che il potere esecutivo potesse piegare la legge a suo piacimento, cambiare le regole del gioco durante la partita, cancellando diritti chirografari consolidati, magari per raggiungere obiettivi politici come quello di aiutare il sindacato americano dell'auto. Nel momento in cui quel sospetto si è tradotto da pettegolezzo e malumore in richiesta giuridica formale, la Corte non poteva esimersi, doveva verificare fino in fondo la credibilità delle rivendicazioni e considerare se vi fosse materiale a sufficienza per autorizzare un vero e proprio processo. Quel materiale, ha detto la Corte ieri notte, non c'era. I fondi pensione dell'Indiana, che avevano un investimento di appena 17 milioni di dollari e ne perdevano 5, non hanno dimostrato, secondo i giudici, di avere prove convincenti per delegittimare la sentenza del Tribunale di New York. Se la verifica fosse stata positiva, un processo avrebbe scardinato alla base, per tempi, procedure e possibili sentenze negative, il progetto di risanamento e rilancio di un settore che resta comunque portante per l'economia americana. E forse, chissà, la Fiat non sarebbe mai arrivata a Detroit, un film che non sarebbe piaciuto a nessuno. Così Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, sugli sviluppi, gli ultimi sviluppi della vicenda Fiat Chrysler. Ricordiamo che proprio tra pochissimo, e forse a minuti, potrebbe arrivare la notizia del via libera all'operazione. Torniamo in Italia e torniamo a parlare del voto di questo fine settimana. Come cambia l'Italia elettorale? Cosa succede dopo il responso delle urne? Tra i dati più significativi, quello della crescita della Lega in centro Italia, che ormai rende quasi contraddittorio il riferimento al solo nord da parte del partito di Bossi. E allora questa Lega che sbarca anche al centro, ve la raccontiamo. Ora avanza sopra e sotto il Po e fa breccia anche nelle storiche cassaforti rosse. La Lega di lotta e di governo si insinua nei distinguo della sinistra e nelle paure di città che cambiano e diventa il privilegiato raccoglitore dell'emorragia di voti del PD. A Reggio Emilia il segno del cambiamento Maurizio lo porta in fronte nel cappellino col sole delle Alpi che indossa all'uscita dalla fabbrica. Le teste CGL rimangono, però politicamente non ci credono. Prima viene nell'ex comunitario, poi veniamo noi. Gongola il segretario cittadino Giovannini, che ha visto il carroccio toccare il 15% nelle provinciali e il 18% alle comunali, dove il loro candidato ha superato quello del PDL. Sul territorio emiliano e in particolare quello reggiano, che ha conosciuto una crescita sproporzionata, unica in Italia, legata all'immigrazione, ha creato uno stravolgimento sociale importante. In questo momento di crisi economica la situazione si è acuita perché la coperta è corta e il sistema del welfare è inevitabilmente entrato in crisi. Immigrazione e sicurezza segnano un po' in tutta l'Emilia Rossa l'avanzata della Lega, che sfonda la quota dell'11% e si è Piacenza con un carroccio al 16%. Il centrodestra sottrae alla sinistra la provincia, la Lega può già dire di essere riuscita a piazzare un proprio consigliere per la prima volta dopo un tentativo fallito degli anni 90 anche nel cuore del Consiglio Comunale di Bologna, che ancora aspetta il verdetto sul sindaco. La passionaria del carroccio sotto le due torri, Norma Tarozzi. Dove vivono le persone nelle case popolari c'è molta difficoltà di convivenza in questi condomini e tutti fanno finta di non vedere. Più a sud le camicie verdi si moltiplicano anche nelle Marche e in Umbria, diffondendosi tra precise e sentite questioni locali. Le elenca Francesco Miroballo, segretario di Perugia, dove nella provincia la Lega ha superato il 4%. I problemi delle case popolari, ci sono tanti operai che soffrono questa crisi, che magari pagano il mutuo e magari si vedono una casa popolare assegnata extracomunitaria. E ad esempio abbiamo una grossa problematica che è il lago Trasimeno, sta diventando pressoché una palude, per cui abbiamo molto battuto questi temi, come i temi della Valnerina, dove ci sono anche le zone delle norcinerie e quindi dei prodotti tipici. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo non esattamente di un concorso, ma insomma della possibilità di qualcuno... Beh, di una vittoria, sì. Di una vittoria, di laurearsi, che cosa? Parliamo delle Dolomiti come possibile patrimonio dell'umanità. Entro la fine di giugno, infatti, sapremo se entreranno le Dolomiti a far parte proprio dei beni protetti dall'UNESCO. Una decisione, naturalmente, che ci lascia tutti con una certa curiosità. Sentiamo. Sulle Dolomiti ho fatto la mia prima salita, sono 3.000... a 5 anni. Sulle Dolomiti ho fatto almeno 1.500 se non 2.000 salite. E ho una piccola baita sui prati di Casnago a 2.000 metri, lì passerò le ultime ore della mia vita. Su questo regno di rocce uniche al mondo, l'alpinista altoatesino Reinhold Messner ha realizzato le prime imprese. Dall'alto delle sue cime, come guglie gotiche cesellate dal vento, ha osservato le Dolomiti accendersi al crepuscolo di un rosa pallido, inconfondibile. È a lui che si deve l'idea di candidare questa catena montuosa a patrimonio naturale dell'umanità per il valore universale dei suoi aspetti geologici e paesaggistici. Un'idea nata 15 anni fa, che ha subito stop e ripartenze, ma che adesso è a un passo dal concretizzarsi. Entro la fine del mese il Comitato per il Patrimonio Mondiale riunito a Siviglia stabilirà se le Dolomiti andranno a far parte della lista dei luoghi protetti dall'UNESCO. Sono 9 i gruppi montuosi candidati, 231.000 ettari di superficie, un'area che si estende dal lago di Garda al Tagliamento, che appartiene a 3 diverse regioni e a 5 province, quelle di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine. La complessità territoriale e geografica che caratterizza ogni parete e rende ogni vetta diversa dalle altre non rompe l'equilibrio delle Dolomiti, che si presentano come insieme omogeneo di paesaggi e di storia e per questo candidate come sito seriale. Se l'esito sarà positivo, l'Italia, che con 43 luoghi è la nazione con il maggior numero di beni protetti, avrà il suo primo patrimonio naturale di montagna. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto vi abbiamo raccontato del leader libico Gheddafi, arrivato questa mattina a Roma, ora a colloquio al Quirinale, ma in questi minuti c'è protesta al Senato per la decisione della conferenza dei capigruppo di ospitare domani nell'aula di Palazzo Madama il leader libico. 13:32, le notizie di oggi con GR24 Extra Large. Gheddafi è atterrato a Ciampino, accolto dal premier Berlusconi, adesso è al Quirinale, incontrerà Napolitano. Il CSM boccia il pacchetto sicurezza alle dei diritti umani, dice l'Alta Corte, avverte il reato di clandestinità paralizzerà gli uffici giudiziari. Primo segnale di ripresa, la produzione industriale torna a salire ad aprile dopo 11 mesi, ma il PIL resta a meno 6%. Il sì alla fusione Fiat-Chrysler fa volare in borsa il titolo Fiat e a Roma si incontreranno nel pomeriggio i governatori delle regioni dove ci sono gli stabilimenti italiani. Alla Camera si vota la fiducia per le intercettazioni. Protesta compatta l'opposizione. PD, UDC e Italia dei Valori si appellano al capo dello Stato. E a Montecitorio slitta intanto il voto per l'Abruzzo. Insorgono i sindaci mentre l'Aquila celebra nelle tendopoli la festa del patrono e per il suo messaggio il vescovo sceglie YouTube. E parliamo del dopo terremoto, perché oggi alla Camera ci sarà l'audizione del capo della Protezione Civile Bertolaso, anche dei rappresentanti di Comune, Provincia e Regione delle zone colpite dal terremoto. Tra l'altro poco fa è uscita l'attesa nota del Vescovo dell'Aquila. Che cosa dice Anna? Su YouTube, come avevamo annunciato anche nei nostri titoli, il messaggio per la festa del patrono dell'Aquila nella difficile situazione delle tendopoli. Allora, il messaggio del Vescovo è abbastanza duro, troppo egoismi nella ricostruzione, dice l'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Molinari. L'invito a seguire l'esempio, esempi, se è vero che la tragedia ha messo in luce tanti esempi di solidarietà, dice l'arcivescovo, anche in questa circostanza dimostriamo di essere creature limitate in cui attecchisce anche l'egoismo. E sicuramente il riferimento è anche a quanto sta succedendo in questi giorni, alle proteste per chi vuole subito i fondi. E buongiorno a Stefania Pezzopane, presidente della provincia dell'Aquila. Buongiorno. Grazie per averci raggiunto, anche perché oggi appunto è giornata di audizioni. Iniziamo però dalla protesta che c'è stata ieri, se vuole insomma parlarne. Ieri i sindaci di alcuni comuni a Sulmona si sono ritrovati, anche i comuni cittadini hanno manifestato, sono i comuni esclusi dal cosiddetto cratere dei paesi terremotati, esclusi anche dai benefici economici, immaginiamo. Qual era il senso di questa protesta? Ma è una protesta importante, perché quella è una zona molto in difficoltà dal punto di vista socio-economico da diversi anni a seguito della crisi industriale. Il terremoto ha acuito ovviamente la crisi, molte aziende operavano in collegamento con l'Aquila, quindi il cortocircuito che è intervenuto produce enormi danni. Inoltre una buona parte della Valle Peligna ha subito danni dal terremoto, non certo come l'Aquila, ma sono danni significativi, e per controllo analogo alcuni comuni sono stati inseriti nel cratere avendo analoghe situazioni, quelle della Val di Peligna invece no, e quindi questo ha creato un grande contrasto. Aspettano il verificarsi delle promesse di Bertolaso, ma al momento le promesse non sono state esaudite e quindi la protesta. Ad acuire il malessere c'è stata l'ordinanza firmata dal Presidente del Consiglio il 6, ma resa nota l'8, in cui anche i benefici fiscali, la sospensione dell'IRPEF ed altro sono state annullate, e quindi ovviamente tutte le categorie produttive ieri erano molto molto irritate. Presidente, tra l'altro il decreto per l'Abruzzo doveva essere al voto oggi, è slittato dopo le elezioni, ora si accavalla con le intercettazioni. Insomma, tutti questi ritardi pare di capire che non vi piacciono. Non ci piacciono i ritardi, ma soprattutto non ci piacciono gli errori, quindi si deve fare presto, ma si deve fare anche bene. Oggi noi siamo qui per ricordare alla Commissione Ambiente della Camera e quindi a tutto il Parlamento che il decreto, pur migliorato al Senato, presenta numerose lacune che, se non risolte, ci creeranno enormi problemi per la ricostruzione. E la popolazione è allo stremo delle forze, 2 mesi in tenda, l'approssimarsi del G8, ieri un'azienda ha licenziato 350 persone di un call center per mancanza di commesse, quindi si aggiunge al terremoto un'operazione ulteriore di soppressione anche di attività produttive che potrebbero tranquillamente operare perché i siti non hanno subito danni, che questo agita molto le popolazioni, quindi si deve fare presto, si deve fare bene, e il 15 noi ci auguriamo che venga discusso e approvato, e oggi siamo qui per ribadire alcuni essenziali contenuti senza i quali il decreto, come ha dimostrato in questi due mesi, è lacunoso. Senta, Pezzopane, tra l'altro dal punto di vista così politico, visto che ci sono state da poco le elezioni, colpisce questo dato che il partito della maggioranza, il PDL del Premier, ha ottenuto un sacco di voti da quelle parti, quindi evidentemente la linea del governo ha convinto gli elettori, però gli amministratori di centrodestra e centrosinistra compattamente continuano a lamentarsi. Insomma, come si spiega lei questa situazione? Ma l'analisi del voto non può essere così semplicistica. Hanno votato il 26% della popolazione, 30.000 persone sulla costa sono rimaste lì, e chiaramente la sovraesposizione del Presidente del Consiglio, venuto 13 volte all'Aquila, e soprattutto la speranza che lui possa risolvere i problemi ha coinvolto in un voto di aspettative e di speranza. Se si fa un giro nelle tendopoli si capisce chiaramente che c'è invece tanta preoccupazione. Si spera nel fatto che il Presidente del Consiglio mantenga gli impegni, e il popolo aquilano è un popolo molto fiducioso, e speriamo che questa fiducia sia ben riposta. Le lamentele degli amministratori sono molto concrete, prescindono dalle appartenenze, così come possiamo dire che la campagna elettorale non è stata fatta. Io stessa, che pure appartengo a un partito e pure appartengo a un'esperienza politica, mi sono rifiutata dal 6 aprile di prendere parte a qualsiasi momento di natura politica. Il Presidente del Consiglio era anche candidato alle europee, non ci dobbiamo stupire che sia stato votato, e speriamo che adesso quel voto sia ben riposto, che non accada che è passata la festa e gabbato lo santo, perché e questo ovviamente è il vostro appello. È il vostro appello. Certo, ringraziamo certo. Allora la Presidente della provincia dell'Aquila. Grazie per essere stata in diretta con noi. Solo qualche altro brano. Nel frattempo sta proprio uscendo il messaggio oggi dell'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Molinari, che anche questo di appelli ne fa. Dicevamo, troppi egoismi della ricostruzione, dice l'arcivescovo dell'Aquila nel suo messaggio per il santo patrono. Un conto, dice, vivere questa tragedia all'Aquila, altra cosa abitare a 50-100 chilometri e registrare qualche piccola lesione alle case e ai monumenti. Non è la stessa cosa. Accuse di egoismo dunque che vanno dritta alla polemica di questi giorni. Egoista, aggiunge ancora il vescovo dell'Aquila, è anche chi, pur riconoscendo che è giusto trovare dei terreni per ricostruire delle case, non vuole che sia proprio il proprio terreno ad essere preso a beneficio di tutti. E ora vogliamo voltare pagina, vogliamo andare in Gran Bretagna, uno dei paesi dove anche l'esito delle elezioni europee ha avuto maggiore eco, anche se era atteso, insomma, il calo di consenso sensi del Premier Gordon Brown, che continua ad avere problemi. Oggi viene attaccato dal Daily Telegraph sulla vicenda dei rimborsi delle spese dei parlamentari. Brown ha rifiutato di rendere pubblici alcuni documenti dell'inchiesta. Il giornale ora lo accusa di non avere mantenuto la trasparenza necessaria. Lui intanto pensa a riforme per rilanciare il suo governo. Insomma, che succede? Andiamo a Londra da Leonardo Maisano. Buongiorno a tutti. Allora, Brown prova a puntare sulle riforme per risalire? Sì, assolutamente. Ha lanciato oggi questo programma, sta presentandolo in questo momento, infatti siamo fuori da Downing Street in questo istante, sta presentando il programma che prevede tra l'altro anche un'ipotesi di riforma del sistema elettorale. L'Inghilterra rimarrà maggioritaria, non andrà al proporzionale, ma potrebbe esserci la decisione di avere collegi non più con un deputato preselezionato, ma un gruppo di deputati, lasciando così al votante la possibilità di scegliere fra diversi candidati. Questo è un aspetto importante delle riforme. Un'altra riforma di cui si parla, ma di cui ancora non c'è conferma assoluta, è la riforma del sistema di voto, l'introduzione di un sistema di voto per la Camera dei Lord. Attualmente la Camera dei Lord sono tutti scelti, o sono a vita o vengono nominati dal governo. Invece Brown intenderebbe avere una seconda Camera in parte elettiva. Questi sono i due punti principali della riforma di cui si sta discutendo. Leonardo, tra l'altro ti chiediamo anche questo, perché oggi a Londra non so se tu non sei forse neanche uscito di casa, è paralizzata da uno di quei classici scioperi dei trasporti. Sì, assolutamente, è paralizzata dallo sciopero della metropolitana, no? Io in questo momento sono, come dicevo, vicino a Downing Street, ma sciopero della metropolitana, hanno cercato di supplire con il rafforzamento dei mezzi di superficie, però obiettivamente Londra è nel caos. E grazie anche, Leonardo, per questo quadro, Leonardo Maesano. Andiamo con Giulia Crivelli? Sì, buongiorno. Ciao Giulia, allora oggi da cosa parti? Ma volevo, visto che insomma di elezioni abbiamo parlato tanto, volevo citare due o tre copertine di settimanali stranieri. C'è Time, per esempio, che ha in copertina un personaggio che è l'iPhone, e sullo schermo dell'iPhone compare l'home page di Twitter, che poi Twitter viene dall'inglese to tweet, che è il verso che fanno gli uccellini, e c'è un approfondimento all'interno, con tanto di editoriale del direttore di Time, di Steven Johnson, che spiega come Twitter sia davvero più di Facebook, tant'è che cresce più velocemente di Facebook, quello strumento di social networking che veramente cambierà, probabilmente sta già cambiando, il modo di comunicare e anche di fare giornalismo. Twitter è è una sorta di Facebook per telefonini, se vogliamo semplificare. E la cosa interessante, secondo Steven Johnson, è che gli utenti stessi hanno iniziato a creare delle applicazioni per questo programma, quindi è così friendly che gli utenti possono modificarsi la loro immagine e somiglianza, e questo dà proprio l'idea di come la tecnologia è diventata una cosa che non usiamo semplicemente, la adattiamo alle nostre esigenze. C'è qualcuno però che oggi con la tecnologia se la prende non poco, con Google almeno. Sì, c'è invece Intelligent Life, questo bellissimo trimestrale dell'Economist, che ha invece un titolo che è Is Google Killing General Knowledge? Se Google sta uccidendo la cultura generale, nel senso quel bagaglio di conoscenze che ci portiamo tutti dentro di noi, che ci siamo costruiti nel tempo, quelle che vengono testate, diciamo, dai quiz, quelli soprattutto quelli vecchio stile di Mike Bongiorno, quindi, o Trivial Pursuit, questi giochi che vengono tutti citati nell'articolo. Google è senz'altro una grandissima enciclopedia, anche se sappiamo che poi bisogna stare attenti, se si ha il tempo bisognerebbe verificare due o tre volte tutto quello che c'è scritto su Google, non prenderlo per oro colato, non è proprio come consultare la Treccani, però ci dà un alibi per non formarci quel bagaglio di conoscenze che invece per i nostri genitori, per esempio, era abbastanza automatico. Questo ha un'influenza anche su come, naturalmente, su come si viene indottrinati a scuola, o meglio sul tipo di istruzione che si riceve. Può darsi che, scrive Intelligent Life, in futuro si usi Google anziché, appunto, per fare le ricerche, anziché consigliare strumenti un pochino più faticosi, se vogliamo, da usare. E però è un fatto che comunque è vero, se ieri chi non aveva la Treccani non poteva trovare una risposta a molte delle domande che gli fossero venute in mente, oggi con Google è tutto a portata, Google o altri motori di ricerca, diciamo oggi con il World Wide Web è tutto a portata di mouse, appunto, di tasto, e presto, dice Intelligent Life, a portata di comando vocale, perché questa è la nuova frontiera. E magari non sarà neanche lontanissima in fin dei conti. Grazie Giulia Crivelli. 13, 47 minuti, 30 secondi con GR24 Extra Large. E allora torniamo al Quirinale, dove ci dovrebbe essere collegato il nostro Vincenzo Miglietta, perché stiamo seguendo gli sviluppi della visita del leader libico Muammar Gheddafi, che tra l'altro è stato anche contestato da alcuni parlamentari dell'opposizione. Prima però, Vincenzo, l'iter istituzionale a questo punto, l'incontro con Berlusconi, adesso cosa c'è? Il faccia a faccia con Napolitano? Di nuovo buongiorno, il faccia a faccia è terminato proprio in questo momento, il Presidente della Repubblica Napolitano e il leader libico Gheddafi stanno per rilasciare una dichiarazione congiunta. Poi ricordo gli appuntamenti della giornata: Gheddafi sarà alle 18 a Palazzo Chigi, alle 19 a Villa Madama per una nuova conferenza stampa con Silvio Berlusconi. Ecco Vincenzo, resta con noi, perché intanto c'è da registrare anche la protesta al Senato, perché ricordiamo, tra i vari appuntamenti di Gheddafi ci sarà anche il discorso al Senato, decisione presa a maggioranza dai capigruppo, ma la protesta c'è. Oggi in apertura di seduta c'è stata un po' di bagarre, il gruppo del PD è riunito in questi minuti per definire la posizione dei democratici sul da farsi, molti senatori senatori sono contrari all'iniziativa e ci sono già dichiarazioni assolutamente contrarie. Vincenzo, non so se su questo tu hai degli aggiornamenti oppure se, perché visto che tu sei al Quirinale naturalmente, quindi non sei proprio lì dove i parlamentari protestano, altrimenti ci sentiamo magari più tardi. No, vorrei ricordare, ma lo avete detto giustamente da studio, proprio che questa mattina la seduta al Senato si è aperta con la protesta di alcuni parlamentari dell'Italia dei Valori, dei Radicali e del Partito Democratico. In particolare si ricorda da parte di questi esponenti dell'opposizione che si farà parlare in aula una persona che nel suo paese non rispetterebbe i diritti umani, ma dalla maggioranza il capogruppo al Senato Gasparri ha ricordato che la decisione di far parlare Gheddafi in aula domani è stata presa martedì con una decisione condivisa, quindi evidentemente martedì c'era stata una condivisione sull'intervento di Gheddafi, oggi le polemiche che abbiamo ricordato. Vincenzo, se Napolitano non sta ancora parlando, ci risentiamo con te nelle prossime edizioni allora. D'accordo, a più tardi. Grazie, adesso invece andiamo con la cronaca, sempre per quanto riguarda l'Italia. Ha partecipato anche l'esercito all'operazione anticamorra nella notte a Portici, quartiere di Napoli. Sono stati schierati due battaglioni. Imponeva il pagamento del pizzo a tutti, perfino ai fiorai nel cimitero. Il clan Vollaro egemone nella città di Portici, nel napoletano sgominato la scorsa notte dai carabinieri del comando provinciale di Napoli con l'arresto di 32 persone. Ciascun venditore di fiori doveva pagare agli esattori del clan la somma di 250 euro al mese. La rata era invece molto più alta per i commercianti di tutte le più importanti strade della città, i quali erano costretti a versare cifre oscillanti tra i 500 e i 2000 euro mensili. Tra gli arrestati anche Antonio Vollaro, attuale capo del clan, e altri sei figli di Luigi Vollaro, soprannominato Califfo per la sua eccezionale prolificità e padre di 27 figli avuti da una decina di donne, fondatore e capo storico del clan, attualmente detenuto dopo essere stato condannato a 2 ergastoli per altrettanti omicidi. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti, violazione alla legge sulle armi. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Da Napoli a Torino, dove in questi giorni apre una nuova ala del Museo del Cinema, un po' particolare, sentite. L'ottica e i segreti della visione sono sempre affascinanti, ma difficili da spiegare. L'ottica e i segreti della visione è il nome della nuova area espositiva del Museo del Cinema di Torino. Affascinante e inattesa perché dedicata a un pubblico per cui questa materia è ancora più difficile da spiegare, i non vedenti. Il direttore del Museo del Cinema, Alberto Barbera. È un lavoro di non di semplificazione, ma di chiarificazione, di spiegazioni in realtà abbastanza complesse, che servono per far comprendere a tutti come funziona l'occhio umano e come i principi che presiedono la visione sono gli stessi che hanno consentito quelle serie di scoperte scientifiche che hanno portato all'invenzione del cinema. E quindi si parte dall'analogia fra l'occhio e la camera oscura, si spiega come alcuni fenomeni fisici come la rifrazione o come il passaggio attraverso una lente modifica la traiettoria, il carattere fisico della luce e consente di lavorare su questi elementi per riprodurre meccanicamente il principio della visione attraverso il dispositivo cinematografico, e tutto questo è spiegato sia attraverso pannelli scritti che possano essere letti da tutti, anche da chi deve utilizzare il Braille, sia attraverso modellini tridimensionali che possono essere toccati, manipolati anche dai non vedenti, che attraverso questa manipolazione possono comprendere tutta questa serie di fenomeni naturali. Il progetto, che mira a rendere accessibile il cinema a tutti, è iniziato nel 2007 e prevede anche cicli di audiodescrizioni al cinema massimo e le visite guidate con interpreti della lingua dei segni e in base a tutte le esigenze di ogni tipo di disabilità, motoria e sensoriale. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E queste le notizie di oggi. Gheddafi a Roma accolto da Berlusconi, poi faccia a faccia con Napolitano. Il CSM boccia il pacchetto sicurezza, le dei diritti umani, dice l'Alta Corte. Primi segnali di ripresa, la produzione industriale torna a salire ad aprile dopo 11 mesi. il sì alla fusione Fiat Chrysler, atteso a breve l'annuncio ufficiale. Alla Camera si vota la fiducia per le intercettazioni, protesta compatta l'opposizione. A Montecitorio slitta il voto per l'Abruzzo, no agli egoismi, dice il vescovo su YouTube nel giorno della festa del patrono. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. Anna Migliorati, Alessio Maurizio in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. E l'appuntamento, come sempre, domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.